qui serena, bella, vado dove si vieta, vuoi tornar col dono, onde si parte. Morir mi sento, io dall'acerbo duolo, sento passarmi il cor. Vitegna, parlo, io non avrei negli occhi chi ti sveno la parte. Perdonati non ti ecco, poiché l'ordine uccisi, ignoterno il tuo fuoco, io lo sapeva, e con te di sua morte, o lui Maria. Ma pure non mi prende il cuore, ma lo dischiappato, mio Germinio svenuto. Servigna di tuoi sguardi, ma il mio degno non è, o la mi dici, o mio sorte tramonta. Ma mio meglio campione, sette colpi, specchio d'onore, di valore esempio. Ma mio, mai pace, o dei tuoi trionfi a goder fra le stelle, la gloria degli eroi. Va, cal tuo crine, son preparati in cielo le stellate corone, e a te servato fu dal primo in fra gli dei. Non posso più. Guidatelo, lettori, hai tanta fretta, e vengo, Lucio, con questo bacio, e le mie labbra a te secondo. Tre gotti contro Roma, con porta l'armi dei latini, lascia la cara patria in pace, e tu la pace, prendi le chiole tolsi, quando Geminio, provocato, uccisi. Signor, con l'alma mia che te conviene, teco porta la fede, che da questa mia destra alla tua destra. Consola adesso il vero, ma io t'abbraccio, e di vitella in petto il cuore non si spezza. Dal labbro di vitella queste grazie non chiedo, elle sarieno offese. Il più m'offendi con tua dimora, senza baciarti vado, cruda vitella, dove per la mia morte ardon le faci. No, ma mio ferma, ecco gli amplessi, i baci. Ciel, vitella, fratello, lasciami, ecco io venir voglio anch'io. No, fermatevi, il vanto di morir per la patria è l'orgio moro. Lasciar di nuovo alloni coronata sua fronte, a me si ascrive. No, no, restate. Viva Maria, viva Maria, viva Maria, viva Maria, viva Maria.